cartello accanto al quale è morto oggi quel manovale. Ufficio vendite oppure affitto, in quel cartello c'è ancora scritto: s'arrampicava fin sopra in cielo, inalberando alti palazzi, e lavorava con la speranza di possedere solo una stanza. E sarà quella, pensava spesso, mentre fissava al muro il gesso. Vedi amore, quella parete, con le mie mani l'ho fabbricata, e se un giorno sarà la mia, metto il ritratto di te, Maria. Mentre innalzava i suoi castelli, salendo in cielo fin sulle stelle, morto in volo quel manovale, come ad un angelo senza le ali, si è sfracellato dove c'è scritto ufficio vendite oppure affitto. Chissà perché in questo mondo, fin da che mondo, non è accaduto che morisse lavorando un cavaliere del lavoro. A morire nei cantieri, nelle fabbriche, nelle miniere, sono gli angeli senza le ali, operai.